Ma no, ma per dire, lui, con i lunghi, la tagliare di lunghi si fanno la Schietti che c'ha quei derby con la Cagliari, merita una grande stessa serie, o già, se ho sette colpi. E allora ecco una scorta della polizia quadrata, e li accompagniamo anche dalla città di Sassari, no? Tu penso che non era con una. Praticamente questo sul 5 passeggiando ti dà un calcio a questa cosa ed è la lampada di Alamino, esce Alamino fuori e dice esprimi un desiderio, però ricordati che tutto quello che esprimi tu a Fernolese sarà raddoppiato. Quindi allora se domando un milione allora ti dare su lui. E certo, e se vuoi una Ferrari allora ti dare su di lui. Certamente che sì. E allora peggio una cosa, che avete meglio lui. Yeah. punto fondamentale di Faenza, un mio carissimo amico l'aveva fatto. Allora, quelli sono una cosa da tentarsi, porca miseria. Faenza aveva anche navigatore o già? Tutto, navigatori satellitari di provincia del nord del fine mondo. Il fine mondo, hanno contato le volte, ho sentito una comprata con scandagli, profondità non so quanto, mi stava dicendo a 50 euro l'uno, affari che costano 500-600 euro. Ho già fatto la conversione, oggi mi hanno cambiato addirittura il contratto, 24/24 di PRS, perché io non posso entrare, uno va a la consegna e poi domani vorrei essere 24/24. Ho comprato anche le scatole vuote, se invece avevo scatole vuote per imballaggio. Un GM1000, un GM1000 anche anch'io sto portando, sentiamo dopo. Ciao Giacchi, a te. Ciao a tu. Sono da portare la pentola. Adesso tu mi c'era il cucino la farete, adesso ce lo risale, quindi potrà mantenere. Cosa vuole di buono? No, niente, sono tornato a fare un po' di pasta asciutta, veloce, no? Non ne ho voglia. A parte il fatto che non ho neanche voglia di mangiare, non ho neanche pranzato oggi, mi ho finito tardi, poi sono dovuto andare a fare cosa, andare a casa al suo dove c'è un po' di roba, e fare tutto il giorno così sono. Io, mi è capitato due volte, questa è la seconda. sicuro, sì, sì. Era la seconda banca, quella di sopra, perché si faceva la luce e mi scendeva l'acqua sopra al tavolo. Figurati, facevo un pasto la cera, mangiavamo ravioli, qualcosa con la... con... non ti voglio dire parolacce perché si imparerebbe la barca, ma già lo sai, qualcosa dove fa... l'acido muriatico con la padrona, pensavo che fosse il tubo intasato, ma lampado acqua con l'acido muriatico. Sono stato tutta la notte, guarda, fuori, sono tutto il giorno fuori, dalle 8, anche prima delle 8 per l'esattezza, che ero pare 5 metri sì, fino alle 3 che non si poteva entrare in camera, in casa, quindi sono stato fuori, solo che sarei morto dentro. Ehi, l'acido muriatico che insidiava, io siamo mancati. I fumi che sono l'acido muriatico sono altamente tossici. Ieri sera e avanti ieri ero fuori, non ce la facevo più, sono 3 giorni e non dormo un cazzo proprio, niente. Dormivo a mezzanotte, mi ricordavo a mezzanotte alle 5 del 22 ieri. Ho anche la fortuna perché mi sentivi, tic, sembrava la sveglia. Ma la voce qua vero, oppure la fiume? Sì, ma la voce, la voce tutta l'ora. E mi ha trovato da sopra, sai cosa mi ha detto? Sua moglie è attiva, tu bravo mi ha detto a me. La moglie, non mica la mia moglie è quella, sono attento, non si sente la faccia di collo qualche giorno. Tua moglie è attiva, tu un pochettino più bravo. Perché tu sei maschio? Sì, la gente quanto prendeva, dice 50 lire, io ti ho detto per 50 lire ma quanto la faccia toccare la mia, gli ho detto. Per mettere a fuoco ne ho comprato 50 per imballare. l'apro, me ne vado, poi al momento opportuno faccio scusare il cellulare e lei scende il primo, secondo, se soffiamo assieme. Io ci devo fermo, ma è già, buonasera a tutti, siamo qua là sotto io, Pero bueno, así puede la... fianco a quello di mamma. C'erano due tiravatrici, prese a 50 euro l'una, nuove, nuove con la busta. Lo so, sono prese la scarpa con le lavatrici. Kappa, avrà fatto un assocco, avrà venduto di quella maniera e via, capito? E va bene, ma non me la fatti nulla a me, io mi ando in un negozio da Euromilio a Mille World, di capiteria. Ah, se me la fai dura che non così a troppo, che non mi sembra se ci fuori di casa, e me la tengo con parenti. Davvero qui, la porta ha fatto un furto intero, la porta ha fatto una quindicina. Io con la busta ancora con c'era rispetto, una non accendeva, l'altra non girava il testello, nuove, tutte le roba di scatole, mercatone, sono tutte le cose che da riparare. Nuove, siamo macografia addirittura. Hey. già, quindi punto e boh. E poi c'è l'apparecchio, niente? Sì, sono praticamente meglio così, così ci sentiamo fuori belli a rete al 6-2. Dimmi qua. Quello che stava sequestrato è cazzo di gatto. No, no. No. No, Popo, stai confondendo di brutto. Allora, io era sempre un taxi da Lafayette, però era 270 e niente, non era omologato. Poi c'era il fratellino più piccolo che era quello omologato, sempre taxi da Lafayette. Però era 40 canali, omologato e con le bande laterali. Se te ne ricordi, ne ero imparato uno che non mi ricordo se era di Pierandrea o di chi fosse. Ed era omologato 40 canali, solo che aveva le bande laterali. Mentre che il mio era il fratello più grande, però era 270 canali e non era omologato. Che tu mi hai detto, mi te ne compri uno a pochi soldi di mettere l'omologazione, tanto la scritta è sempre Taxi da Lafayette, se te ne ricordi, se poi non te ne ricordi pazienza, capito? Antonio c'ha ragione, sono due con la stessa marca, la stessa cosa, però uno è omologato 40 canali e le bande laterali e l'altro è da 270 canali. Che il mio era fatto dalla casa anche con la frequenza dei 45 metri. Aspetta, allora uno è Texas che è MSM per esattezza, c'ha ragione Antonio, e dopo l'ho dato 40 canali, invece il tuo era un altro Texas che era marcato sempre da Lafayette però era del 61 con la sfera dei 45 metri, tutto lì, però erano tutti e due uguali, cioè non uguali, uguali, uguali, però il tuo era un precedente calzondato 4005 nero, preciso. Antonio già se lo ricorda, il 4005 nero, quello che vendeva a Giorgio Grassi, che è uscito dopo il 2009, non mi sbaglio, Antonio. Comunque, io l'ho avuto il Texas, non è una bandiera laterale il mio, io l'ho omologato. Anche il mio, Antonio, la parte Texas, che mio, 40 canali, MSM, non è una bandiera laterale, sì, il 4005 è uscito dopo praticamente il 4000. L'ha fatto 3006, 3009 e 4000, l'ha fatto il 4005 che l'hanno fatto praticamente dopo che hanno fatto il brutto, perché poi dopo che hanno fatto il primo brutto, hanno fatto il secondo, il brutto MK2, quello più nuovo, con la stella per condizione, con quella piccola, quadrata piccola dentro. E comunque il suo, quello che c'era Mario, che io quando l'ho visto, dicevo cazzo, sai questo è uguale a 4005 e trova la scheda del coso di 45 metri dentro. Mi sembra che adesso non mi ricordo cosa ha comprato Mario, comunque c'è scritto Texas, davvero mi canto. Texas e Lafayette era malaccato. Infatti io ho detto a Mario, ma tu ci siamo, ci chiamo, ho detto, ma lo battiamo da uno e passiamo all'altro. È più uguale. Sai che la fai foro? No. Ma io di Lafayette conosco Typhoon, Indianapolis, da Corsa, ne conosco 50.000, ma un Texas che non è con il Texas omologato, non è un vantone, credimi, non l'ho mai visto, eppure non mi ha trattato di anche di 20 anni fa a me. Sto dicendo, io non sono Mario l'aveva comprato, comunque era marcato così, infatti ho detto a Mario, e te l'ho detto anche lui, che volevo pigliare l'omologazione dall'omologato. Siamo dovuti sentire quei pulsanti eccetera eccetera, mi sono capitato un sacco in mano di quegli apparecchi là, loro togliono l'omologazione da dietro e mettono all'alto, tanto la sempre stessa su marcato la faglietta addirittura. Tanto io ancora i frontalini che si mettevano nel 4005, quindi saranno il 34S, quelli con la coltura dell'omologazione ad attaccare dietro. E allora fai l'affare ricatta Claudio, tanto c'è il 2009, gli vendi 50 euro e si è a posto per frontare con l'omologazione dietro, ti sfa. E io già lo sai che c'è il 2009 così, ce ne sono pochi così. Dai, fatti dare 50-60 euro, tanto fatti dimmi, quelli lo sai come li vendi. Come l'acqua li vendi, io mi sono Giorgio quando vedevo le mascherine e già disini quanto ci ha venduto di quegli apparecchi, l'ho guardato 20 e l'ha venduto. Che c'è il 2004, c'è il suo mercato 101, c'è il suo mercato 101, ma proprio tanto. Valeva parecchio, valeva. Giorgio vi dava il regalo quelle cose lì, a chi voleva lui, gli altri li faceva pagare. Se loro si trovavano 3.000 dopo, li metteva la mascherina del tornado e erano a posto. Tutto lì. Io ce li ho parecchi, ne ho 2-3.000 dopo, se lo vuoi sapere. C'ho il Cemodo, c'ho la... Io ho parecchi in giro. C'ho un FM500S, c'ho un HB23 che c'era uno di Ursi e poi c'era un altro apparecchio che me l'ha catturato, un'altra persona che adesso non c'è più. Figurati. E quindi non me ne faccio niente, mi danno le vote, aggiù regalate, ve la voto a stare con tutti questi apparecchi in giro, me ne bastano due, non basta, non me ne frega più niente, non faccio la raccolta io, però. Comunque, gli 8.000 euro, quel periodo lì, noi riservavamo gli apparecchi, non li comodo per poter modulare, e lui entro già se lo ricorda, come ho fatto con Pier Andrea, ho fatto anche con gli altri, e la metti la maschera per metterlo in furgone, come ha fatto anche Stefano, tutto lì. Ho capito, la conosco quella. Ma sì. Ehi, mi sta valendo il 4.000 da poco, dicevo voi 50 euro, guarda, non ne faccio niente, gli ho detto. Addirittura c'è un altro miliardo, 600 euro più 2001, non ne faccio niente, e l'ha già regalato, la verità. L'ho regalato ma non ne facevo niente, me ne faccio interpretarlo mal presto. Non sono subito a vada basso a pompare come una volta, c'erano tutti quei casini, ti ricordi? Adesso non vai più nessuno, da me ne posso morire, non ne posso tutto. E quindi mi sono tenuto una cosa e basta. Una io, una Giovanna, le 7.000 euro che c'era lei, quindi non me ne fosse più niente. Però, la verità, prima c'era casino, poi c'era casino, adesso no. Oh, Antonio, ma il 2731, che aveva la montata, la 519? L 519 pure, sì, no, la L509 anche monta, la corrispondente. Perché mi hanno regalato una senza valvola, però lo volevo sistemare. Ma qual è la valvola? Ma se questo è il 19 penso che sia io. Quindi sono curato io, sono una di quelle mie che sta controllando Franco. Io ho curato io, quelle di scorta. Ma al limite vedo un po', dai, gliela troviamo una, se va, se no la metto allo stacca, anche quello. Perché non so se è un problema di valvola, perché valvola non ce l'ho, oppure c'è un problema di trasformatore tra. Ecco, guarda, le valvole ne abbiamo, non ci sono problemi. Ne ho di quella roba lì, capito? Già conosce io a Tabiscini se servono a qualcuno, cioè le Dix 419, che sono quelle leggermente più grandi. Una larga scelta di roba, compro, vendo, vendo e compro. Non vanno più, cui c'è un problema sul relevo. Sul relevo quale? Quello di commutazione o quello che praticamente eccita le valvole? Sì, quello che eccita le valvole. Perché quello di commutazione lo sentivo che è esatta. Ah, su quello lì. E poi hai controllato sul... Vabbè, se vogliono parlare ci spostiamo. Guarda, spostati al 20. Comunque le istruzioni di 58 cambiano tutti e quindi saranno sicuramente ultimamente in corsi. adesso non mi ricordo, c'erano quelli, comunque io i vecchi ce li ho qua e sono rossi, non li ho buttati per quello. Qui si vedeva che mangiai, ho capito, perché me ne ha fatto pagare 10 euro. Tu allora domani, no, domani no, che domani vieni il cambio, comunque, vabbè, mi spiegami il cambio, perché sono altri, che quello già l'ho visto. Poi basta, non ve ne è entrato la giambanto. Sì, ma le persone fanno che tutti fra, perché quelli lì, anche se tu le misure con questo, per esempio ci sono bambini che non sono in corso, quando fai trasmissione, la radio fa questa, le mandano in corso e tu manco di rabbise. Sì, sì, ma allora tu lo subi lì. No, adesso non so, questo quello è un staccato, mezzo smontato. E non va a attaccare la nessuna HF, il popolo con baracchino non è un gatto. No, quello della linea non l'ho mai visto, quello che stai dicendo il tuo non l'ho mai visto. sì, magari se non vedo, magari io avrò visto uno uguale, però non so neanche di cosa stai parlando. Hai fatto bene dentro, hai fatto bene dentro. È tutto in, c'ha tutti i variatori in acciaio inossidabile alla fine del mondo, sono tutti così in bronzo. Ehi, ma sa, non mi fagli bene anche, tutte quante le salvature delle l'ultimo maggio in terra stellato, dell'ospedale. Piano piano, più in isombo e anzo. Stamattina ho iniziato piano piano a farmi un po', più con i voi caldi, e vorrei ripreso guardiolo perché sennò non si capisce un capolo. No, perché alcune delle malattie, ma le salvature già lo sai che fine fanno, poi, quelle, perché poi sono molto importanti, gli avvolgimenti delle bobinette in filo argentato, probabilmente lì sono tutte quante le impedenze per l'accordatura, perché se poco a poco ce n'è qualcuno che male tocca o non tocca, o quando scalda non fa mai il contatto, chiaramente lui non sale, perché si trova disaccordato. Certo, meglio piano piano, tanto Claudio in fretta non mi ha messo, quindi ogni volta ne faccio un pezzo. Non lo può fare, ci può chiedere il film, ma non lo può fare. Ma come fa capito già che tu paghi una concessione per il baracchino, è come loro che pagano la casa della Rai, ma stai scherzando? E con che scrittura me le scritture a me l'antenna, perché io la ho per farlo e ti disturbate che sono me, no, io non la sono invece della radio, voglio un rosso e te la metto a fianco al muro, voglio meno se ne ti disturba lo stesso. Gianni. Via. Guarda, è troppo bravo, Gianni, mi è venuto da me, lì mi hanno detto che hanno fatto la stessa cosa, eppure non c'è stato verso. Frate, lo ricordi che anche qui a me a casa di mamma l'avevano mandato la sua radio? Ma non ho giunti? Sì, ma la mia antenna è quella, sì, tu mi hai messo a bocchi, a lui c'è grazie. Già, non vendere niente perché bisticciamo di brutto, eh. Bisticciamo di brutto, non vendere niente, mandali a cagare, continuano a parlare alla grande. Che a casa mia c'è un padrone, non è detto. Tu pensi, ma qua, che io sono praticamente all'angolo di Sbabugino, quando ho messo l'antenna qui a casa di mamma, dopo due settimane mi è venuto uno che abita nella via dove c'è la BPS, che dice che mi metto qua per il televisore. Tutte tronzate, ciò, tutte tronzate, capito? Lì a lui non hanno mai voluto ricattarci l'antenna, e si stanno attaccando perché adesso mi sono fatti già voglio fattuglie. Gianni, perché lì lascia tutto com'è e continua a attaccare, quello che c'hai in modo da tranquillo. Chi non lo vede nessuno a casa tua, vai tranquillo. Ai ai ai. Tranquillo, capito? Se devo fare una chiacchierata non me la busso un vacchio, se vuoi mettere, da chi si bassa isso. Ma perché cavolo devi pensare così? Ma non me lo capire, ragazzo, perché devi pensare così? Tu sei a casa tua, Gianni, non ti devi domandare nessuno a te, l'hai cercato la chiave, io c'ho quello di fronte, trovo sempre la voce qua alla radio, e mi senti come fa, non c'è mai permesso di me, ma il giorno che non c'è permesso, a dirmi, Claudio, ma c'è che voci, lì come me a cagare, capito? Perché a casa mia, fino a mezzanotte, meno 5, faccio quello che mi pare mi piace, poi giustamente la legge è legge, e devo rispettare la legge. A mezzanotte, meno 5, se devo parlare in radio, abbasso la voce, e cerco di tenermi più calmo, però fino a mezzanotte, io a casa mia, mi sono malissimo, mi pare mi piace. Vediamo, dai, non è male. Poi mi dubito con una figa con questo palazzo, cazzo, mamma mia. Ma mi sono preso già, mi hai fatto un paletto di ciccione, mi ho lasso, e vengo io lì, cioè, sì, sono io, mi dica, cosa vuoi? Ma la cercazione del magnifico è bisogno. Magari potrebbe anche dire una cosa del genere, ma poi ci sono i figli, c'è la moglie, ci sono i figli, non è una cosa semplice, capito? E ti trovi un pochettino, perché ti trovi un po' così, tra, No, io sono una condizione, che per improvviso bisogna fare di tutto, io l'ho sempre fatto. Però per me, in una assemblea non mi puoi insultare, capito? Siccome mi sono presentato la prima giorno che ho fatto l'assemblea, dice, lui si è messo mancanti, lasciamolo perdere, che faccia quello che vuole a me, le attende, non so, sopra casa mia non me ne frega niente. E non mi ha ricercato nessuno. Però non mi hanno lasciato vivere, perché tu immaginati, in quel fenomeno c'erano tre persone che lavoravano alle porte. Ogni 2-3 giorni c'avevano le scorraggio, la faceva il commettore, sempre di ferma, e mi tentavano, sono venuti, mi hanno controllato, voilà. Alla fine mi sono tutto fatto, ho detto, ma io voglio di vivo, chi su incubo. Mi sono iscritto, accettiamo, ho preso la patente e basta, non ho più avuto nessun problema, capito? Però anche io, inizialmente, qualcuno del condomino cercava di darmi fastidio, e lui si dà fatto subito la bocca. E questa gente lì, da Gianni, ce n'è più di uno. Ma sono classi, perché anche rispetto, persone ignoranti che non capiscono una massa, ma non capiscono proprio niente. Magari se domani fa un piccolo panino qualsiasi e io mangiavo un filo pollo se stavo a mettere sulla testa un ponte ripetitore della pelle con Filippo a venire il cancro in 2 anni, poi la tela delle malattie mi dà fastidio. Perché sono i farabutti, capito? Sono i farabutti, non rispetta nessuno. Ho capito che lì c'è un vecchio CD, capito? Nessuno mi toglie la testa, credo, per pulire in Italia. Sì, ma per quale motivo? Visto che uno è CD, anzi, dovrebbe sapere che se tu mi chiami sul bando, mi dico sì, guarda che visto che mi dai e dopo guarda perché io sono un CD e lo so. Però se a me non mi dà nessuno, a me cosa me ne frega se il mio fratello ce ne sono 40 di CD? A me non me la putti nulla. Io tu lo sai che qui a fianco a casa di mamma c'è stato tanto tempo con la ricordo, eppure mamma mi ha detto niente e non ha mai dato truffatina a nessuno. Lo so, però Gianni è una persona troppo, io l'ho sempre detto, e si avvia a cui giustamente lui per il quieto vivere è capace di mollare l'uomo, di mollare tutto e pur di non avere problemi. Questa è una cosa che va rispettata, come vi ho detto tempo fa, bisogna crescere lui in pugni veramente questa cosa e dica una volta per tutte, signori belli, io vi rispetto, però voglio rispetto, io a casa mia faccio quello che mi pare mi piace, non sto disturbando nessuno, il televisore non me lo sto disturbando, se io parlo fino alle 11:30 è mio dovere, perché la legge parla da mezzanotte in poi, bisogna per sia matti notturni, bisogna stare in silenzio, in condominio, seppur uno è campagna e non c'è nessuno, allora può fare quello che le piace. La legge del condominio è così, però bisogna rispettare, le leggi vanno rispettate, però io voglio essere rispettato come persona e come tutto, questo è il mio punto di vista. Sì, vabbè, ma quello che stiamo parlando di schiavanti notturni, non di persone che parlano, perché io che sto parlando alla radio, sto parlando come se stessi parlando qui a casa mia con qualcuno. Se io c'ho una persona a casa mia a mezzanotte, non è che mi funziona da mezzanotte in poi chiudere la bocca perché è mezzanotte. Non sono schiavanti, musica, gente che si sta e che salta. Se non parlare con qualcuno, ma ti pare che tu mi prendi io per stare anche stavolta la notte in camera letto con mia moglie a parlare perché non ho sonno. Anche tu mi devi bussare la parete a me. Lo so tu, però esiste ancora questa gente che per me la mette la ricovero, capito? Perché in condominio non so vivere, e la mette la ricovero. Punto e basta, poi questo è il mio parere. C'era anche Mario qua, mi pare, Mario, poi non so chi c'era, Roberto, non lo so. Avanti Mario, ci sei? Capa, che ci sono. Ancora c'è gente, sì, ma comunque guarda che i più rompiscatole sono i vecchi cimini, anche a me la salì me l'ha mandato, anche da uno me l'ha mandato l'occasione, io mi ripeto le decisioni, che non vedi, cazzo, a me la gente balanzi, loro con balanzo che ti fu me lo so io, che sa fa cosa, va bene, cazzo, in quelle zone non ci hanno mai giambato la terra, non ci hanno mai fatto nulla, comunque, e mi sembra della visione, ha detto guarda sì, vai, buona, io non si vede più. Io non mi sono, ma non ho fatto, eh. E non mi basta così, a me no. Io, guarda, quanto mi rimane Oliver? 50 anni, 50 anni vi raggio contro di te. Ci posso fare la mano allora. Io sono uno di quelli, non mi basta molto facilmente. E poi c'è un carattere molto, molto aggressivo, a Sagubogo ha mandato in quel paese, e se non capito, possono succedere cose anche belle, cattive, capite, perché non mi controllo più, quindi lasciamo perdere. A me questo problema non mi è mai successo, mi sono successo questo inghippo così chiamato nel 1985, ma dal momento in cui mi sono presentato subito, più nessuno si è permesso di dirmi neanche qua. Ma manco qua, perché non devono proprio dire niente. A casa mia faccio quello che mi piace. Io tra l'altro sono proprietario del 50%, non di un quinto, del 50% del tetto, perché la mansarda è il 50% della mia, il 50% del condominio. Frattanto sono anche fuori delle tabelle millesimali. Tanto è vero, le chiavi ce le ho io, quando qualcuno mi mette qualcosa sopra le chiavi le chiede a me. Quindi rimbocco le lungaggi, facciamo la geratura e secondo tu vuoi le cari. E così impara. Sai, non la fare così. Con certa gente che ha bisogno di comportarsi in quel modo. Franco! Dimmi! Non basta lo hai. No, sto configurando un po' tattile che mi hanno procurato un disco stasera e lo sto testando. E non ci sono mai trovato un disco di Claudio Villa. Comunque io sono d'accordo. Sono gli ascensori. Io. A me c'è l'età, arrivo con un baro che fa vedere un baro. Io mi ci vedremo a leggere. Comunque mi avete dato una forte, non ho fatto tutto, se ho ripensato tutto di nuovo come la prima. Non è fatto bene, ma non ci sono stati a cagare. Vai Gianni che c'è forte. Ma andiamo a casa tua, fatti comandare all'altri. Ma stiamo cercando davvero. Vai, di la mattarci. Se non attacci la mia voce, vai al ricovero. Vai al ricovero. Cazzo, se ce la faccio, fai sacrifici per combattere in casa, tu devi far comandare agli altri, non farà mai, no? Oddio, quando vengo ti rompo le scatole, ti dico come fa capi. Roger. Un tremendo scambio. Ma questo qui Anto è una vita che rompe le scatole, da quando piangeva la bambina si metteva la voce in notte, mi ha rotto le balle, capito? Ma tu puoi andare a chiamare i carabinieri, ma non è che io ho le balle, te le sacco, te le metto in bocca e ti affogo. Tu ti ha paventato e ti ritrova la bella, capito? A me va bene, ma non è delicato, ma tu pensi che la mia butto fuoco vale nei fari? Infatti ti avevo anche pure i carroni, non vi dico. Ma gli avevo lasciato la radio accesa tutto il giorno io, tutto il giorno e tu la vuoi sentire a mezzanotte. Ma l'avrei fatto vendere l'appartamento, già, ti garantisco che l'avrei fatto vendere. Io mi auguro che tu non metti un vincente così, però è sempre una seccatura, anche se ti neghi a vedere la bocca da luna, è sempre una seccatura. Guarda, io ti posso garantire che può sempre capitare che anch'io trovi persone così, però ti posso garantire che so quello che gli devo dire. E mia moglie gliene dice anche di più di quanto gliene posso dire io. Questo non è di carattere, non so. Perché mi auguri, anche lui è un buone cara, però quando gli capisci di fare il piede, lui ha la vita ti legge, eh. Vabbè, come tutti. Lei non è voluto sentire, lei è buona cara, e se la prende, si spende per il portone, per il suo quanto, poi dal momento che gli fai capire che hai chiuso trice e barracche. Trice e barracche, cavellate. Ma sono giusto, voglio vedere un video del condominio. Allora, tu guardi che se non me la fate in sala, io vi porto tanto le lunghe, faceva il braccio, lo faccio dire, almeno c'è, poi se tu puoi dire, almeno c'è bisogno che arrivi già a questo, non ti avrei tolto la scena, tu ce ne puoi mettere dei critici, appoggi al portone, attaccati uno di fare l'ostolo. Come comunque, c'è sempre bisogno di mettere le carte avanti, no? Allora, io ho detto, se invece di piantare il palo sul mio petto, ho detto, mi viene meglio, ho detto, metterlo in parete. Ma che cazzo domando, ho detto, l'autorizzazione al condominio? Franco, non mi sono domandato se io sono stato nella parete, perché mi ha fatto, è messo in quel modo, e siccome i parati sono confinanti, io ho tutto il diritto di poterlo mettere l'antenna anche su loro, ho fatto già. Questo esiste, un decreto dove c'è scritto che se tu hai un palazzo che per esempio è un tantino più basso e ti toglie per un certo qual modo la visibilità dell'antenna verso il ripetitore o verso qualsiasi cosa, loro hanno l'obbligo di fartene parlare sul loro pezzo. Chiaramente mi farà fare con la data, cioè non è che tu vai lì e ti apri un paro così e ti innande. Come la mia, ti sono andato di com'è, avevo la data, anche non so che cosa dirti. Addirittura il staff è messo bene, tutte belle siliconate attorno per non lasciare i segni nel muro. Ma tu praticamente hai confinante con la camera da letto, che cos'è? La camera da letto di quello? Sì. Non vedi cosa smetti di sopportare con me? Perché hanno le stesse camere confinanti? Cosa devono fare? Le case come le facevano una volta, girate come la mia, quello che ho fatto io, girate al contrario. Ma io praticamente ho la cucina. Loro hanno la sala, dove io la camera a letto, loro hanno la cameretta, cioè girata. Che schifo di gente, eh? ragazzi vi saluto, come ne vado a letto. Franco, Roberto, Claudio, Gianni, Mario, boh, e non me ne ricordo altri. Se c'è ancora Pompugno, boh, non lo so. Ciao a tutti, buonanotte. Buonanotte, buonanotte. Ciao a tutti, buonanotte. E buonanotte per domani, ci vediamo domani al limite. Ripeti Roberto. Ciao Antonio, buonanotte, alle prossime, ciao. Ciao a tutti, alle prossime. Ciao ciao. Vai Gianni. Proviamola. Ah, ma quando vuoi, io tanto sono a casa, non posso uscire. dimmi che vedrai, fuori PayPal, PayPal truffa e tutte queste cose qua. Quindi No, sto scrivendo, Ada è un paese vicino a Sassari. Lo conosci? La provincia di Cagliari, vicino al Nuoro. Prendo eccellente microfono, la tavola, anzi di tavola. Avanti e tre, questo microfono mi sta tirando. Avanti e tre, ottime selezioni, testatemi tutto come funzionante. Con una normale pila da Roman Voice. Vabbè, questa non è che la funziona. Per chiarezza ho dovuto risaldare la capsula che era risaldata dal suo cavetto, ma l'intervento era invisibile. Il mic è leggero, è potente, ha la regolazione del volume, il LED TX e lo strumento Umiter che indica i tuoi decibel a speaker. Se hai un Midland, vedi, è il suo. Guarda, quindi se hai il Midland è il suo trattini. Fatto una linea compressa per l'invidia dei piccoli modulatori, già che frattemi, fatti una linea compressa per l'invidia del tuo rompiballe. Capo, luce per 13, carica di notte. Era l'altro giorno, c'erano due mattasse. Ma era carica di notte, lo buio io. Carica di notte. Allora. E ora se devi là. Cappa. 4 giorni mancano a questo, ci dobbiamo passare, 4 giorni, 17 ore. Tanto offerte, bisogno. Offerte. Ah, compra subito 19 euro. Allora non compra meglio. Cosa? Hai subito con la tavola. Questo Alan T3. Si assomiglia all'Intec 308, flessibile, molto bello, mi pare una Lunis. Bellino lì, tutto cromato nero. 19 euro compra subito già. Guarda, c'è scritto qua, davvero, non sto scherzando, Se hai un Midland, è il suo. Fate una linea completa per l'invidia dei piccoli modulatori. Quindi praticamente questo va bene al Midland. Denuncio. Contattami per concordare il pagamento. Preferirei la ricarica. È di tua sorella. 73 da Mirko. 81. Io Luca, figlio di Mirko, per il Midland. Ah, ma non ho mai giocato. Ma con Minucci. E non faccio il microfono al Midland. No, me lo voglio. Sì, per il più, tanto comunque non ci mettiamo d'accordo, se riesco a mandare questo, quello è mio! Grazie, tutto! Brucia, cosa dici? Ah, me lo prendo, dicevo mio, lo prendo per l'attacco, ah, una pistola me l'attacco, non faccio un video lì. Diglielo poi se, in caso, lo usi, te lo prendo io, là. Magari va bene anche a Gassi. Se c'è la capsula, c'è scritto c'è la capsula ceramica, compila la Roman Rolls. Ceramica dovrebbe essere come quella della Lunis, nota. Quindi di solito le ceramiche estinguono più delle dinamiche. C'è ombra di dubbio. Già, è un biglio, noi ce l'abbiamo qua, a chi serve si rubiglia. Se non vedo la voglia, compratelati per le scarpe a Luca, le ho pagate 10 euro. Ah? Grazie per le scarpe che ho preso, non è che li volevi. No, non con altro. Ah, gli dici allora? No, mi sembra di voler usare i vostri libri di giugno, che dirà. Affa. No, non russi, fui di un viso. Filippini, va bene, ti ridò. Non lo sanno, come domani a soffetto, se mi dice di stasera, basta. Si può comunire, mi sto fermando a prendermi caffè da qui, ti scendo, mi restacco la testa. Come fa perché non lo fuori quando vuoi? Già, se si ferma, guarda, se mi hai detto lì mi dove sei, che vengo io a fare il grande insieme a te, così te lo mando in bocca, a vedere che sei, è sparito. Si può comunque male in radio, chi questa volta mi comprometto davvero. Ma non mi è toccato una cosa impressionante, stavamo facendo la prova con Luca, provando il microfono e traduciamo a questa qui alla parolaccia. Sul canale 10 poi, ma chi sei? Vai via! Ehi, non è ancora questo qua là, giorni, se no vi dico che lui ha, ti stavo conoscendo qui, se andiamo da mattina a mano, no, non stai andando. Sì, ma so perché a me non mi offende, capisco. Un po' di roba, è roba di cibo, io qui. La matrice posso le pagava due roba. Cazzo, ti quasi hai pagato. Non vedi che la matrice. Io ti posso fare, ti faccio qui per il vero, posso fare, c'era la treggia, e a te c'è un brotto. Guardami qui, qua io sto leggendo una cosa molto interessante, quindi non dare quella radio, non è quel prezzo. Scheda, ecco, per Mobicon, 80 euro, compra subito. Qual è il Mobicon? Mobicon, M finale. È una della L finale, allora è sbagliato perché è imbecille. Ah, ma è sbagliato, bro. C'è scritto Mobicon con la N. Non c'è neanche il modello, anzi non vado a vedere che scrive è. Guarda, guarda che c'è il bit. Nella descrizione sto andando, c'è da vedere. Se mi dà. Attore, vabbè, non abbiamo nulla. Nuovamente, se non mi devo pure l'elettrica. Oh yeah. Sì, già sarà. Sono pronto il bit. Via con la pistola. Mi scrivo, adesso Luca è con la pistola. K. E mi dice 60, 33 euro e 50. Buono. Che pagina? Aspetta, te lo dico, è quello che sta vendendo. In realtà è il... Quello sta vendendo l'effettivo 897. Pagina, te lo dico. Pagina 6. Quanti soldi ci vuole per comprare, mamma mia, raga. Ehi, non è che ci vogliono il soldo, la volontà ci vuole più che altro. 4,40, 11, 60, 440 euro. Buono, buono, buono, togli 100 euro del microfono, buono, buonissimo. Quello va bene, vedi. Ma vedi con i fianchi. No, io dico di chiudersi a casa mia. Sì, magari che è incendiato il resto. Beh, la torna a buone condizioni, c'è scritto qui. Sì, magari cazzo, magari va un giro ci trova il resto. Ma non sto parlando anche il tocco, perché il valore è un po' più superiore. Cosa? Più superiore? Sì, sta uscendo di brutto. Che sono io grande, A48, è elaborato a Colt, il dominatore, euro 50, compra subito 490 euro. No, quello ci conta, che è elaborato, perché lavoro in una macchina. Lui si è scritto, Midland A48, quindi un Midland normalissimo, elaborato a Colt, il dominatore. Euro 50, compra subito 490 euro. Dimmi che pagina è, gli faccio una domanda al trabocchetto. Sulla pagina CB, cioè devo andare su CB a pagina 7. Ma come ho capito, euro 50, 400? Allora è euro 50 e manca una regione, sono arrivati già a 50 euro. Compralo subito, se lo va subito, lo prendo dall'asta. 490 euro, un baracchino. Sicuramente sarà quello di... già ne ho voluto io. Tu la spero 500 euro per far solo così. Ma con tutto rispetto per Gianni, ma non avrei mai comprato. A quei livelli mi compro di una HS. Questa è la pagina 8, tutto antenne, una tutta nuda. Mica la 48, multi più CB, 40 canali, ma sempre numerato. 140 euro compra subito, ma insomma io allora ci sono mettendo una barca di soldi. Milan alla 78 plus CB omologato 110 euro, alla 68 169 euro. No, chi se vuole male? Milan alla 48, alla 28 110 euro. Io ci ho messo 200 euro. Come fai l'orario? L'ha chiamato tutti a 100 euro io il Milan. Ma il 48 plus 162 euro. Tu devi mettere l'altra. No, ma gli ho dati agli amici, capito? Questi amici di Alghero e Urbia, che sono, uno c'ha una ditta di trasporti e le cose mettono nei camion, nei furgoni là, sono i trasporti a Urbia. E l'altro ha una ditta di trasporti ad capito? Gli ho dati per quello, sono tutti omologati, ho messo nel cambio, cazzo ma sono rimesso. Madonna delle carpinere, e che non c'è via. Vabbè. Mi sta scendendo dai. Alla 48. Punti 140 euro. 160 euro. E tu aumenta, mi dici hai sbagliato. No, la parola è parola, non è che. Non mi sfruttavo per così poco, mi dispiace prendere il culo, pazienza, che io già vi fa. Mi dispiace, no. La invito a fare una domanda a quello. No, sono nel reparto HS, sono già sotto la decima pagina. No, ti sto cercando quello che ho visto stasera, adesso te lo dico. Ah, dica, dica. È uguale a quello che c'è tu, mi sa che me lo prendo. Ma lui c'è? No, quello che c'è tassi colorati che sono più bianchi. Ah, quello che non piace a Luca, il 101. Infatti sono così, io non sto a caccarlo. Lascia lì che mi trovare, cioè. Siccome ci si possono estrarre i tassi, no? Aspetta che mi sconnetto. Nell'altro sistema. Detto, siccome si tolgono i tasti, no? Quello celeste e quello rosso, li fili e li si vedono e li torni a mettere dentro. E così sono tutti neri. E non vale questo gusci. Infatti gusci mi rinnovo. Quella pure, chi ti ha mandato una volta di prima? No, carissimo, guarda che io Claudio queste cose le ha sempre fatte, capito? Ci sono le vernici apposite, non ci sono le vernici, c'è la vernice per la pratica, quella che vernice le paraurti, tu non le metti, c'è un cacciavite, intanto prima le togli con la tela, lo pulisci per bene, in modo che si dà la grappante, capito? Due pomelli, tutte tranquillo, non si tolgono più. Io ne ho fatto due, 8 anni fa, del, dov'è? Vabbè, non me la metto in bocca perché non si vede nel manco. E fare tutto le 7B. Guarda, quando vedi te la faccio vedere 7 ne accorti, capito? Perché era un po' scorolito, uno dei 7B, quello là sopra il campo. L'ho fatto, perfetto, nuovo, fiammante, uguale, precisamente quell'altro, me l'ho fatto, però ho lavorato la grappante prima, l'ho fatta asciugare la grappante e poi si dà il nero, spruzzato, ma l'uncio, la carrozziere, però non volete che ci li accettano. Questa è una portata a farlo, capito? Chiama a me allora, vedi tu, ma chi è quello che l'ultimo che è arrivato, lui lì, quello che ha 4 tasti mi sembra, veniato, uno rosso e uno blu. Uno rosso che è l'accensione, poi sono due neri, uno celeste che è il digi, praticamente il digi Peter, che è il coso della frequenza, e poi l'altro è nero, quindi praticamente il rosso si può lasciare il rosso come accensione, ma non me la futti nulla. Li faccio tutti e due neri e poi li rimetto dentro. Li faccio asciugare bene e poi li rimetto dentro. Ed è anche più bello. Hai un prenditelo fra. Ce n'è uno che è uguale a quello. Lo so, non mi sostasse la però non ci ha trovato la pagina, la fancuffia. Devo cercare, non mi ricordo, la fancuffia. Comunque l'FT707S con problema di display, 199 euro compra subito. Esce, a me quello che è tu non è l'esce. No. L'esce dovrebbe essere Superman. 707 Super. Chi ci vai due a Gasolio, vuol dire che c'è di Mario. Vai Mario, facci sognare. Aspetta Mario, Franco. Oh. Tu le hai. Cioè non c'è una proposta. Quanto costano le cuffie da soli, quelle a cerchietto? Quelle a cerchietto? Cioè? No, fatti tu a cerchietto. Siamo tutti in giama, quelle da soli, non le auricolari, le altre. Quelle con lo praticamente con le cuffie, le tradizionali. È un cerchietto, no? Dipende dal modello lui. Io ho le... aspetta un attimo, si chiama, che numero sono? Io ho le... un Q 150. Ehi, vabbè, un paio, fammi. Cazzo, non più mi sento uno, ma ho quasi il buffio. No, no, questo è un bello mio, l'ho pagato esattamente 8 mesi fa, l'ho pagato 85 euro. Cazzo. E poi c'ho quello originale della Centro che l'ho pagato 285 euro. Sì, mi vedo migliore, ma così è guffi, ma qua. Io avessi mai, sono uno dei migliori. Perché lui ha le orecchie delicate, è per quello. È una questione di Mario, è una questione di orecchio. Vabbè, io le uso per lavoro, gruppi, però devo avere quelle. Perché secondo in che sala sei, il suono e la cappa del capo, se non hai buone cuffie ti perdi. Cappa, ma io ho detto perché tu hai delle buone orecchie devi ascoltare determinate cose, ti vogliono cuffie affidabili, altrimenti vanno bene pure le cuffie da marocchino, vero Luca? Il fratto si muore, si dirige in mezzo, si sono diventati arrecci. No, no, voglio cuffie serie. Luca, via. Di nulla stai facendo. Ma no. Come di? Ma che? Tu vieni da Cagliari. Mamma mia. Oh, lunedì. Lunedì no. Lunedì. Ma la tassa mi va l'antenna. Sempre dal tempo. Ma te lì sono a muro. Beh, cappa. Però se vuoi guardare a casa e poi a Agostini. È vicino. Passa sangue, sei arrivato. Passa salto un studio. Io non ho mai sapato per il studio. Apri l'acqua vite, ce la vediamo, la metto su in me. Vendo acqua vite. Aspetta, vedi una ragione come va. Ebbene, se ne dai una per un rubinetto, ma acqua vite non lo battessi. Allora, vabbè, bisogna chiedere, capito? Bisogna andare l'acqua a vite, così c'è dietro anche lui in tiri. Capito, mi hai? Capito, ti ho io. Allora, lui, già se ne trova acqua a vite da tutte le parti. È vero, c'è anche uno che conosco che la fa a corso. Sotto lei a Parma. Io non conosco la fascia, la qua vite, ma buona, ma... Io ho bevuto a tisi, la qua vite, guarda, è uno spettacolo. A me non piace. A me la qua caffè è buona. A tisi mio l'ho bevuta, ce l'ho ancora quando lavoravo lì. Ce l'ho ancora, mi pare, un po' un litro, un bocciolo rosso. Anzi, fra, se vieni te la bevi, visto che tu bevi anche la marecchina, che... Caro Dio, lo conosci il Franchi? Il Franchi, sì. Io sono a Bulì. Ah, vero? Io sono a Bulì, per quello a Covite ci andiamo di quel posto. Mi hanno massacrato. È buono questa, ricordo che non vieto la faccio assaggiare, non la bevo io, la assaggio solo così. C'è una bottiglietta di quelle piccoline, me la metto nel caffè. L'altro giorno me l'ho bevuta con latte per stagiarmi un po' da questa roccia. Marcabado. Comunque io sono a Bulì. Cosa fuori fa? Faccio gli IT. Ah, no, sono in Bulì. Che sta? No, no. Sono il piffero. Perché? Bello fra. Non è solo il fra, è il crack. È il crack, sono fuori lui, Mario. Adesso faccio sentire dal ventole. No, no, fra, no. Ma la dove? Ma si sentono nel vento gli amplificatori? Papà, ma voglia! Roberto, l'ho detto sì, non l'avete cercato! Allora, adesso chiudo io, saluto a tutti, stavo ascoltando, era un mezzo dormito, dai! Buonanotte a tutti, tutti quanti, alle prossime, ciao ciao! Ma vabbè! Sono passato, però non ti ho visto. Ho visto una panda, però c'è già un mese quella panda. Ma dobbiamo fare la panda con la zona, la 4x4. Un altro bianco per me, sono subito. Luca, già riposato, ho fatto la pennicella, davvero, e adesso è fresco come una rosa. Vai Luca. Sì, io acciaio, sono acciaio. Ah, sto parlando di Zerica. Vabbè, mi ha squillato il telefono, la spannapoli. Convinto di averlo spento, non c'è la stessa. Posso poco gravire, bro. È un spento. Sono a quest'ora, sono stato in mondo dei sogni. Sì, che ha pagato, è troppo questo cancio a me. Che domani si lavora. Io, per carità, per carità. Ma no, si lavora? Ma è vero, Mario? Cappa, cappa. Ma non c'è andare, Posso messa? Fai messa, ma è sabato. Niente a fare. No, è bello, mi ha fatto ridere stasera. Quando sono arrivato, dice, ma li metto 100 euro. Ma tu non lasciali a domani, che così domani me ne dai di più. Che dico, povera Patrizia. Allora ti lascio la matrice a gratis. No, a gratis no. Anche se sono dei amici, non sono gratis. Allora, non c'è azienda gratis, ma pure la di darsi. Ah, perché ci sta cagno, Ti fanno da cagno e nulla. Ma è che sia una bussata. 100 euro, come ti parli, siete voi giudici, no, non puoi domani lo per me. E se tu non arriva la domani, che domani mi ne dai di più. Ma carità, tutti uguali, ciò. Non va a cambiare mai, cisci. Più ne hanno, più ne vogliono, che. Non lo sai che è così. Poi, quando sono me ne sto andando, non sta. Guarda che. Quello di oggi è stato rimandato a lunedì, mi devi andare per mancare poi a Guspini. E non c'è problema, vedete, dopo c'è va tutta una serata, buro. Però passo la zona, passo la domani, devo fare la lavatrice a conto buio. Gappa, infatti c'è quelli domani vado, compro la lavatrice, dico la tenda, vai a là. Quando la segno gli ammi la fitta, mi darà il buon riso. Ma io fatto via Mario l'assegno. No, ma se macqua, se mi vuoi 200 euro, me l'assegno il truppo. Vabbè, intanto da 200 si comincia. Ah no, oggi ho 300, ma devo dare 200, lo farò male, 900. Gappa. No, 900 non te le vado, ma così ti serve 10. No, questo mese me ne toccano 700. Perché ho lavorato sabato sera e domenica mattina, così che mi tocca di più. E tu fai su buco leggero. Vai Gianni, vai Gianni. Sì, è stato sveglio, sei a istante. Tocca a nulla che ci vuole, ma non c'è solo anche nel gruppo. Luca è dormito, Luca. No, io sono ancora in Romì, sono ancora in Romì, fa poco ma sono ancora in Romì. Sei Nicola. Sì, all'incirca. E allora Mario, non vale i trucchi. Mario. Ciao, sempre fumendi. Allora, la azione fumo durante il giorno, fumo un bel cavolo, poi la notte non va bene. Allora, preferisco andare in coma. Gianni, cosa stai dicendo? Adesso allora domani tutti si va a Cagliari. No, lunedì a Cagliari. Prima a Cagliari a caricare le macchine e poi a Guspini a caricare il materiale. Parto vuoto e torno pieno come nuovo. Magari a Capocaccio non è venuto in cammino. Pappa. Macchina di aria condizionata, no? Adesso tra poco il 21 inizia la primavera. Che affaria. Allora, bene. E si guadagna. Ebbene, ora ci vuoi fare, bisogna lavorare già. Altrimenti è un casino. già fate pure installato le pompe di calore? Certo. Tanto è difficile da fare con i generatori, mamma mia. No, è difficile, ma che casa? Ah, ma che casa? Là in casa? No, una che casa per stare con i generatori. Già lo so, sto scherzando. L'ho fatto pure io, mai, l'ho fatto pure io, una cagata per passare, ma... E l'ha presa. Ma il buco. Ma se tubi, appendi la macchina in terra, esci fuori, altri quattro buchi, attacchi la strada, piazza la macchina, fai il vuoto e poi... apri il gas e la macchina sta andando. Non so. Già lo so, giallo. È una macchina sono già cariche. Lo so che le macchine sono già cariche. Tu devi fare il vuoto. Devi svuotare l'aria che c'è nella macchina interna. Capito? Una volta che hai vuoto, c'è una macchina che distrugge tutta l'aria, poi chiudi e gli apri il gas della macchina e lì si mette in circolazione e funziona tutto a cappa. Mi sembra che siano 20 secondi, mi costa, sono 12 o 20 secondi per il vuoto, non lo ricordo bene. Ma se mi inchivi, là. Un secondo in più, un secondo in meno, glielo muri. Che ti ha detto questo? Ah, dove lo fatti? Dipende da quanto tubo c'è. Se c'è il tubo e tu devi fare il vuoto, no? Se c'è un muro, Mario. Sì, muro. Se tu ti devi mettere quelli di quello che abbiamo fatto. Secondo Mario di mettere la rottura di palle. Una volta abbiamo piazzato una larghiero con le risposte. Ma in alto, proprio la scuola tutta alta al massimo. E alla fine che cioè, praticamente ha preso le misure del motore, siccome la leggermente più grande. Infatti lui ha convinto che quella stessa facevano prima, andavano bene per l'altro motore, il nuovo. Quindi le misure no, lui bisogna cambiarle, vabbè. Ma sono salito, buccato, rumba, piazzate. Il blu vest, non vuoi la piazza. Appena c'è la puntata di padre si alza a due su. A che mangi qua il motore? In casa mia sembra basso, no? Con la scala sono arrivato giusto. Allora. Ti dico una cosa, con tutto che era una 9000, non era una 12000, che era quella piccola. Perché le camere mie non è che siano molto grandi, sono 4x4 mi sembra. E ti dirò che dava fastidio a quando vieni in punta a doverti girare con la macchina per metterle sopra le sappe. Arrivo. E che rimanesse in punta in punta e tu vado pure il biombo. Per un motore della 24.000 mi si deve fare. La 24.000? La 24.000, ma le ha fatto un anno. 24.000, no? C'è la più grande, mi sembra che sia 18.000. 24.000 non c'è, no? E chi te l'ha detto? Ora sto fritto solo. No, quelle lì le sale la gru, le sale, no? Noi non le saliamo, no? Quelle da mettere in soffitto. Sono grandi, sono. Oppure sono quelle da mettere dentro qualche giardino, come quella che abbiamo piazzato lì a Caniga. Ha fatto la piattaforma per terra in giardino e l'ha messa lì. In un angolo ha messo la pompa di calore. E nell'altro ho messo il pannello solare. Allora, no, quelle macchine lì non è che se la sacudono. Allora, non è che si impiede una cana sotto la 24 miglia. Allora, ora lì, madracche. da ore con in terra. Oppure ci mettono le staffe, ma proprio appena appena li sollevano da terra. No, già non so, ma già non so che prendono quei motori lì, e come se pesano. Ma anche gli splitti pesano, non è che c'è i zivi, No, no, gli splitti sono leggerissimi. Gli splitti, invece che i motori, sono leggeri. Ma allora, nella chiesa del centro ne abbiamo piazzato due, da 15.000 l'una. No, questo dicendo io, da 150.000 l'una. Ci arrivano 1, 2, 3, 4, 5, 6, per ogni macchina c'erano 6-20 corrotori che alimentava. Sì, spesso alimentava, non sia. No, 20 corrotori, quelli che hanno il tubo più grosso, anziché essere quello sottile da 6 millimetri, era quello da 12, tubo grosso, tipo quello dell'acqua. Ho capito, sì, è vero, quello che sembra che sia da 12, o 12 o 16, se non mi ricordo. Ma noi abbiamo messo quello da 14, 7 macchine per parte su ogni macchina, e poi l'altra dall'altra parte, sempre, però quella lì nella scaricata la gru, è venuto il camion gru per togliermi la sopraccata e metterli in posizione sua. E quelli che sono un bel cavolo, non so, yeah. Guarda che ne abbiamo piazzato l'anno scorso, un bel però. E che il mio ex principale aveva preso un po' di macchine, un prezzo buono, un prezzo fracciato, ma un bel avviare, se l'ha fatto tutte fuori, tutte. Già si l'ha venduti i malasuffi, ma via, quasi un po' di ore in chili, mi dico che si è analizzato di sera, siete in mezzo, lutto, ma fuori vari. Entrava a lutto e ci va, però di nuovo sono usciti, sempre mi ha fatto euro. E capo, quello succede? Che succede? Hai detto ciao, grazie, arrivederci. Ma vorrei prendere a Gianni, se no si dorme, Gianni, lo terrò. Gianni si è dormito. Bravo, lo desidero. Ma che c'è lei? Ma Franco, non c'è più. Franco non si dorme, no. Franco sta lavorando per noi. Capito? Lui è sempre di servizio, è sempre di servizio. È una guardia notturna lui. Ah, vero? Ah, no. Non già più. Questo è un pipistrello, non dorme, capito? Lui mangia, beve, tranquillo. Adesso sto operando il mio amplificatore, perché adesso che c'è qualcosa che non quadra. Adesso vediamo, c'è quadra. Gianni, facci sognare. Cazzo, invece su casa di muro, Edo. Ti sei dormito, Gianni. Come fai? Io sono dormito, non ne riesci a dire manca cannonate. Così lo senti. Ma qual è quell'amplificatore del 2001 che avete applicato qua? Bella via, stiamo facendo una modifica per far andare in HS, capito? No, gappa. Ma perché ma da laterale ce l'ha già? Sì, ma non ci serve che dia più. Che smerigli un po' di più, capito? Se devo arrivare a Luca, devo fare salire quel mobico. Gappa. Ma queste valvolare, mi sembrano poco affidabili. Sì, sono affidabili, quella è una bella bestia, è fatto molto bene, ma veramente bene. Adesso mi fraco le da due ritocchi a Cirantonio, a Buratacchemo. Quello c'ha il l'ingresso, il tuo quanto c'ha l'ingresso? 4 watt? Sì, 4 watt. Fa 5 a 10 watt l'ingresso, non di più. Però ne butta fuori 600 belli, puliti, puliti, non distorce nulla, niente. Non costruisce le torce, solo che c'è una differenza, che quello c'ha l'eccitazione d'ingresso 100 watt, capito? 100 watt per usarlo con questa radio. Ma cappa, le sta facendo la modifica allora? E si conferma, devo usarlo con questa radio, 100 watt di pilotaggio, quindi tu immaginati cosa butta di uscita. Mi scatta, questo picco... con 10 watt ma da laterale togli 1200, un kilowatt e 200 watt, allora, 1200 watt di potenza in uscita in banda laterale e la resta invece da M. E ma io se ne dico 1200 M però e non in banda laterale che non si deve accedere 2004. No, a me bastano anche 1500, non c'è problema. Non c'è, non che se dà la stessa potenza in banda laterale, mi roba lo stesso. L'importante è che dia tutto la M. Ah, cappa, vabbè. No, perché in la M, ripeto, questo qui è solo 600, invece in banda laterale 1200. Quello lì invece se ci dà 1200 in la M ci dovrebbe rendere 2004 in banda laterale allora. Dovrebbe essere così matematicamente, ma non si può raddoppiare, capito? Non si può raddoppiare. No, la gente va a prova a ruganare il vico appena pronto. Ah, lui. Io penso che si accende alle lampioni muralliniche. Non le imparano, peggio per loro, vogliono una guerra. E va bene, facciamo una guerra. Devo combattere a Lucì, no, quando sono appena più di 100 watt, no, perché questa radio lavora fino a 200 watt picco massimo, e già si lamenta a Lucì, immaginate già giocando un buon cubiscio, noi vediamo se giochiamo davvero o se giochiamo a caldare le cose, di poco di roba. Ah no, via, e va bene. Arriva, grazie a fare il video, grazie va. Grazie se ci riesco, uno ce l'ho, se tutto va bene. E poi vediamo. Facciamo le prove sul 5 a vedere. Le prove si fanno sui canali bassi, capito? Sono, non vengono bene sui canali alti. Sul canale 5 le faccio le prove. A lui, ma vedi. Ci va anche lui che può battere la voce. Marco dopo di... boom! Stai zitto, ritirati, io scordati. Sotto al camion che ti sto passando a fianco. Okay, guarda che hai dichiarato qua. Non ce ne vuole vita anche se camionisti, Mario, non ce ne vuole vita. Guarda, io ce ne ho un sacco amici, ma bisogna che si cambia il cane, che si voglia la mura, che ti si offende a beffa. Oggi siamo presi a parlare sul canale 10 a me e a Luca. Ah, Lucia, a Gieta, Franco, portati via l'amplificatore, va, fammi questa modifica, arrivaci di molto badare la zamba. Io dico, non si intende, non guardare dall'altro, come in vecchi tempi, mi hanno chiamato Mario Babbo Natale, che non ti dia Costantino Freccia da Edo a Edo, e io Natale Zico, con via le 9.22. Ah no, che brutto. Figurati, tu arrivi forse così, cosa sarà con il suo gigetto? Oh, gnagna! Ma non sto scherzando, era una cheremule. Ci hanno preso il caffè cheremule e era uno dietro l'altro. Tutti e due lavoravano con la Rune allora. E uno a casa, sul canale 5, il computer del 922 attaccato con questa radio. Beh, mi ha chiamato Mario al telefono, sono parlato di anni fa. Capito? Al telefono a casa, c'erano qua al telefono a casa, ma è tu qua. C'è un amico, riposati da Lusico, non intendo a Costantino Viraggio a 100 metri, attaccato a me a 50 metri, non lo sento, me lo stai ammazzando, stai arrivando a Cheremula e fondo scala. Ehi, gappa, vabbè. E vecchio Nebula non è vicino, è un po' lontanino. Non è molto lontano, io ce l'ho preso in pieno, sono in una vallata, in un peggio, devi passare 15, devi passare da quella zona, e no, non ce n'era, non ce n'era per nessuno. Quando me la portata non si sentiva manco la mossa volare sul 5, rimanessi tutti frabinati, caro Denise, caro Lotto, caro Vinti, 23, 40, tutti frabinati erano, a fuggirli. Si è appagato, guarda un peso. Se non si sentivano una volata. Dai che poi loro, vabbè, se ne sono appropriati perché si scambiano giusto le notizie, il salutino quando si incrociano, questo proprio non ne fanno, capito? E poi giustamente magari spostati a 4, spostati a 10, spostati a 14 come succede, e magari non sanno che nel 10 c'è gente, poi giustamente c'è quello che gli dice cosa, che gli fa osservazione. Allora si incavolano. Ma vabbè, ma non è anche giusto, ho capito. Non è anche giusto che loro devono fare la parolaccia, la gente se sono venuta. Scusa, Allora, anche poi come loro prendono la roba e la scatola a noi, noi abbiamo la roba da loro. Se noi non fa questione, io e Luca, Romanzano, e ci avrei cosa succede. Allora dichiariamo guerra. Ci vuole la guerra, noi abbiamo la guerra. Io non voglio usare la bici, figurati. Allora me la butta a me. E lì ci vogliono, capito? C'è molto tempo da perdere, tranquillamente, senza parlare male a nessuno, mi metto a parlare sul canale 5 poi, e ci arrivo già a vedere. Allora Luca, allora, così bisogna fare, così, cavagao, ecco per me vado a cucchiata piccolino. Dei gappa, va a cucchiata, no, quello di parlare male. È molto ingiusto perché loro dice occupato, vabbè scusa, mi sposto di un altro canale, di altri due, di altri cinque, non è importante, cioè quello di arrivare a parlare male è una cosa, un bel fastidiosa, perché tu non sai niente chi ci può essere in casa, chi non ci può essere, cioè uno deve parlare bene, poi se c'è qualcosa da dire dice. Ah, guarda che ti devo parlare, fatti trovare, e uno chiarisce le cose, per dire, ma non che uno si metta lì a dire parolaccio quello o quell'altro. Se mi stava raccontando Roberto che dice che a Gianni gli hanno letto la vita, gli hanno cercato la moglie, la famiglia, ma scherzando sai, è che Gianni è troppo bravo, se no gli abbiamo la macchina. L'avrebbe seguito, gli aveva avuto, me lo rimando davanti, gli aveva detto, questa è facile se te ne va a vedere. Mi sto dicendo che stasera con Luca l'abbiamo tirata a questo, ha detto vai, ma un attimino. E se non mi ha lasciato a casa, gli ho detto, io sono in via all'Alfa, vieni a Carbonati. Non ci prima vedi che sia un bambino, ci butti pure a dare un microfono. E non è giunto. Questo che era via Baldella, allora ho detto già, facciate a vedere se è via Baldella. E invece non vera, capito? E poi invece questi stavano parlando sui canali amici, noi stavamo facendo le prove con. Io ero in silenzio, stavo attaccando un microfono. E Luca stava provando il microfono. E era cominciato a farmi da male, capito? Sempre sono così. Tutti i giorni ce n'è una. Alla fine ci vuole la guerra e noi abbiamo la guerra, qual è il problema? Il problema non ce n'è, solo che la gente che si comporta così da maleducata non è che vada tanto bene. A quella gente bisogna proprio tagliarli i viveri, perché non è giusto, va. Uno deve parlare correttamente, educatamente, per rispetto anche verso gli altri che ci possono essere all'ascolto, tutto lì. Ma infatti, ma mi pare che sono tutti quanti, capito? A tricchettratti, o tricchiamandratti, come si dice chi. Le uniche persone serie sono veramente poche, capito? Perché ci fanno i fatti su, parlano, se devono parlare e rispettano la gente. Beh, c'è chi dice che deve nascere il padrone del mondo, ma siccome non sono il padrone del mondo, neanche noi giustamente siamo il padrone del mondo, però noi siamo il coscienza e il canale 10, già da diversi anni, non stiamo rompendo male ma nessuno, ma tutti quanti vengono a pure ammortate e a farvi da male, e sono sempre gli stessi, camionisti, gente che lavora nella strada, qui e là. Allora, vattene sul canale 5, noi non ti stiamo cercando, non stiamo disturbando nessuno, perché tu devi venire a rompere le scatole alla gente? Capito Mario? E quindi sono esagerendi, allora sono esagerendi, piano piano per vedere che mi ha tomato la giamba io a Eddie. Beh sì, così è, bravo, bravo, già ti vuole un pochettino di pulizia, cioè per fargli ricordare che in frequenza ci può essere di tutto, davvero, anche da voi, sai com'è? A posto di portarli i calli, poi trovi quello che si gira e ti serve del giaburo. Beh, ma infatti, infatti. E mai non metto tempo a visibile, Mario. Dove io sto qua a perdere tempo a prego da dietro? Io maestro, buongiorno signori, buon lavoro a tutti e buon ascolto di Radio Torre di Controllo. Ufficio la portante, attacco la radio, ando con il videocaffè, le sigarette, il giornale e alla buongiorno. Gappa, la portante pure l'altro, come ti fai a lavorare, ma... No, adesso ho l'occhio, mi va, manco lo tocco il microfono, rimane calcato da solo, Mario. Capito? Rimane calcato da solo, sono a TV Vox, io lo regolo, come ti passi la musica, passi la portante. Non ce n'è problema. Canto con la musica fino alla portante. Canto attacca la musica, attacca la portante. Tutto in automatico. Operatore assente. Torno tra un'ora. Cambio. Gappa, gappa. Ma no, lo sai che mi sono agito quando mi hanno detto che è morto... Non c'è mai. Ehi, ho visto anche la foto di giornale. Poverino, ma... Ah, e già c'è anche tu che ce l'ha detto Antonio. Ah, vero, è quello in frequenza. Ehi, ehi, è bello ammalato. A me manca anche una gola, poi l'hanno operato e così via. L'hanno operato anche a Pier Andrea, mi siamo visti all'ospedale, stavo facendo la lastra io. E lui doveva fare una visita lo stesso. L'hanno operato la gola, parla con la macchinetta. Allora. Mi è piaciuto tantissimo, si picchia anche per lui, sì, ha avuto un problema alla gola e l'hanno operato e quindi adesso praticamente parla con la macchinetta, ha un extraterrestre, va bene, se vuoi che mi sa che arrivi. Cappa cappa e beh, davvero, sono cose brutte qua, e con la gamba bassa, ma... Ma lo sai che perché era la tua coppia Andrea? Ma non so, lui ne ha preso colpi, adesso voglia che l'incidente, poi ha avuto un altro incidente, è stato male, lui adesso l'operazione alla gola. Un cinghiale, cazzo, un cinghiale, sempre bello grosso. Ecco, però non che se me lo sai che dove il sangue quando era ricoverata onde che aveva avuto l'incidente. E che era ricoverato lì per operarlo con la mano di sangue e l'avevamo andati io, un Pomponio, un Pier Andrea e siamo andati in due macchine. Dai Andrea, quello di Andrea, quello di oggi. Cappa. E beh, Marco, andateci in bagno. Sì, se non sei dormito. Sì, sì, altro che il bagno, chi si è potuto giocare le coperte, altro che il bagno, Gianni in cuccetta, come parla a Dio che c'è un grillo, io non riesco a capire, proprio Gianni che disturba, fa due passaggi dopo cena e se ne va a letto, a ratta di niente Malaga, mamma mia non esercito in quel palazzo, era abbassato un mattino. E gappa gappa, ma qui mi hanno fatto osservazione, ma... Quando sono venuti che non ci hanno visto che l'antenna piazzata con quel dipolino. Ora adesso dovrò risalire per piazzarmi un bel dipoli, almeno quattro. Hanno il diritto di ambasciata un macchino che non prevale, ma la gente a quelli. Ma nell'ambasciata è vero, ma no, non avrebbero più parlato, tranquillo, non avrebbero più parlato. Ma secondo me ne approfittano perché vogliono che Gianni è troppo bravo. E che se ne chiedi io su quello, se ne chiedi la gente poi su mare, non vorrei dimenticato. Ma Gianni per queste cose è troppo educato, non c'è da fare. Quando trovi una persona così, loro ne approfittano, capito? Gaffa, vedi, tanto che sei bravo, non si gira, non si risponde. Vero, anche se non aveva acciappato l'asso, mi chiede che se ne gira lì, tutte le cose, queste quei secondi, io dico che se ne sono fuggiti tutti. Ora, a te non mi racconto un attimo, se devo fare una prossima. A te non mai? Allora, così fa male, controlla con te. No, vai. Così com'è? No, vai. C'è un mezzo però. Allora ti ho attenuato ancora di più, ti ho portato a 7 e vai a 9. Sì, 9 più 5, sì, da 7 a 9 più 5, è salito un bel quello, eh. Non è salito, è salito, è salito. Io l'ho visto quasi al massimo con la lancetta. Normale, attenuato, 8 con picchi positivi a 9. Allora, così devo abbassare. No, così c'ho picchi negativi. Grazie. fuori 480 watt, ma 15 watt. Quello c'ha 100 watt d'ingresso, capito? Monta 4 valvole grosse. 15 watt, tu immagini già di, siamo già quasi 500 watt. Con 100 watt in ingresso quello deve arrivare al kilowatt in AM. Guarda, lo vedo. Ehi, l'ho visto io, sì. L'ho visto io, l'ho visto. Vai tranquillo, fidati. E quello l'ho già usato io, l'ha giurito Trottelli, ma Trottelli volte, ma adesso con questa modifica, questo allineamento dovrebbe andare ancora, ancora meglio. Io lo attacco qua, mi utilizzo l'attacco al baracchino, io lo devo attaccare qua, metto la potenza così come adesso e ci siamo quasi 70 watt modulati. Adesso che mi dai, vendere se mi dai, ne ho 100 pieni modulati per avere tutto il liscio. Fate mamma perdono. Thank you. Mario, come lo senti? Mario, vedi, a te letto che qui io lo sento a bomboletta, mi accende tutti i led. Sta picchiando forte, quanto sta segnando fra? Ehi, sono quasi a 500, 556, ehi, sono quasi a 600 al 50%. Minchia, sempre col pilotaggio basso però, tu lo stai pilotando molto basso. Sì, sono sempre a 15, aspetta, ecco qua che fischia, guarda così, aspetta. Così sono a 15, guarda adesso, guarda, ha fatto il fischio, guarda. Thank you. modifica mettendo nel transistor di alimentazione l'ingresso più grosso, anziché andare ai 5 watt e per viene ai 10, anziché 600 se ne va 800, 750, capito? Tutto si può fare, che era un problema, si può fare tutto. Quello era 20 watt di pilotaggio, perché è nato così. Io, siccome c'era una modifica che si poteva fare anni e anni fa, gli ho fatto fare questo, non è quello, questa è quella valvola, capito? Non è quello trasferizzato. Si poteva fare una modifica, portarlo a 20 watt e 100 watt in ingresso, e così avevamo fatto. E lo usavo con 430 io, figurati. Ma uscia una bomba uscia, 800 watt puliti in AMM, senza pompare molto, perché io non mi fidavo molto, cioè ero le prime armi con chi c'è radio, e quindi ha detto, chi c'è con più dute, no, chi? E li portava bene. Poi l'ho attaccato, perché avevo paura, problemi di tutti i generi, capito? L'avevo messo sui soffitta, è nuovo, è in buone condizioni, nuovo. C'ha due strumenti, uno d'ingresso, uno d'uscita, c'ha un bel roba quello amplificatore. È molto molto selettivo, è fatto bene dentro. E ora la salita giunta a Franco, fra volte me la mettiamo a posto lì. E lo sta facendo funzionare di nuovo, già si vede la differenza. La giunta che l'ha posto in ordine. Cambiare degli spezzoni di cavo che sono già cotti, capito? Cambiare condensatori, cambiare roba che c'è da cambiare, non me la fotti nulla. Poi lo mettiamo qua in funzione, i cambiamenti sono già pronti e vamos alla playa. Dovrebbe rimanere stabile una volta che è accordato. Ma so, Chi vuole passare sono qua. Ciao a tutti, buonanotte. Yes. ok, ciao, buonanotte a tutti quanti.